Una buona serata, anzi per meglio dire un saluto da queste parti, dalle parti di Max Macchia, dalle parti di 451 Frammenti Sonori e perché no appunto di Radio Città Fujiko, dove appunto vi sto trasmettendo proprio in questo momento in diretta, addirittura in diretta, e poi ovviamente per chi ci ascolta in differita, che è una parola insomma che oramai è tutto un po' differito attraverso i social, quindi magari appunto ci ascolta tramite il plugin di 451 frammentisonori.noblogs.org, magari tramite appunto i vari altri social che passano la notizia di appunto questo 451 frammenti sonori. Questa sera appunto in mia compagnia con Hip Horror 2016, quindi c'è da preoccuparsi seriamente, ecco, da spaventarsi, anche perché insomma i progetti che metteremo sperimentano con forme insomma di paura, se non addirittura di terrore e anche di gioco legato insomma anche deturnare o prendere per il culo o attaccare, per altri versi invece quasi arrivare concettualmente ad altre a cose magari non dirette e quindi con un chiaro linguaggio, ma attraverso appunto l'horror e quindi tutto il simbolico, no, che si porta dietro nell'immaginario orrorifico, che è unito nell'hip hop, questa sera appunto hip horror, semplicissimo gioco tra l'altro di parole, quasi banale oserei dire, se non l'avessi fatto io appunto lo direi tranquillamente, ma a parte insomma le autoironie che comunque ci vogliono soprattutto da queste parti, come si fa a rendere orrorifico un suono che già di sé, se vogliamo, nasce come Frankenstein, e quindi se pensiamo al cut-up poi fatto al collage dell'hip hop, quindi della storica old school, e poi appunto con le varie diramazioni che ci sono state tuttora rispetto appunto a quell'approccio appunto che nasce in America, e quindi i vari two-step inglesi, i vari pop più o meno nazionali, tra cui anche quello italiano, che tra l'altro non è che abbia dato tutti questi grandi effetti, ecco, forse ecco, se dovessimo parlare, e stasera comunque ci sarà per certi versi un progetto hip hop, ma molto molto tra virgolette, come d'altronde tutto l'hip hop di questa sera è virgolettato, forse tutto l'intero hip hop dei nostri giorni, quello sperimentale, quello ancora che vuole appunto creare nuove situazioni, partendo magari avendo coscienza perlomeno della storicità del suono e del percorso trattato appunto dalla old school, per poi passare a tutte le diavolerie che sono avvenute in termini di elettronica, in termini anche di mutazione, poi questo è un po' il tema dentro specifico di Hip Horror 016, trattando appunto il 2016, sono progetti appunto di qualche mese fa, andiamo a trattare proprio quello che forse la particolarità eccezionale dell'hip hop, ovvero il rap, il cantato, che ha dato poi anche fama non soltanto in termini underground, se pensiamo insomma a quanta strada veramente ha fatto e anche quante dispersioni appunto ci sono state nel corso degli anni. Prima appunto prima dicevo il two-step inglese che poi diventa grime, appunto forme di hip hop che prendono anche l'Oriente, diventano cose anche abbastanza estrose, bizzarre, ascoltandole ovviamente da qua. Forse lo è stato anche l'hip hop italiano per un periodo, forse all'estero, ma forse per poche faccende. Insomma, mi viene in mente AK-47, assalti frontali, forse, ma come dire, a Bologna è quasi innominabile, sangue misto, comunque vabbè, faccende varie che comunque hanno attraversato appunto anche il nostro territorio e per molto di quello che è l'underground che ancora si muove, ancora sobbalza e riesce anche ogni tanto, come dire, a tirare una sorta di toccata verso l'overground, verso il mainstream. Questa sera appunto ci sarà anche un progetto bolognese che tra l'altro tra pochi giorni insomma tenterà lo sfondamento londinese, quindi dopo comunque vi dirò dentro futuri rumori con appunto quello che può significare appunto in termini di immaginario orrorifico, terribile, noir, con anche anche prima accennavo a questa cosa, sia una sorta di quasi gioco gotico che va magari a mascherare o forse anche addirittura far esplodere certe attitudini appunto sperimentali, certe attitudini che sembrerebbero distantissime veramente dalla verbi pop, insomma quello originale, quindi power electronics, quindi industrial noise, forme appunto di ragga molto urbano. Va da sé che la musica hip hop è una musica decisamente urbana, nasce come musica urbana. Anche lì potremmo insomma aprire parentesi, ma chiudiamo insomma le faccende dell'hip hop pastorale questa sera, non ci interessano, anzi tutt'altro. E uno degli immaginari forti del horror e con forse veramente quasi l'uso strumentale di un immaginario scuro, noir, decisamente gotico nel suo appunto farsi anche a volte preoccupantemente mortificato, quello di More Mother, anche con tutto il rimando che c'è rispetto non al valore estetico appunto dell'immaginario gotico, soprattutto che prende questa hip hop decisamente sperimentale, ma più che altro per quello che può trasmettere appunto attraverso l'estetizzazione di un immaginario anche piuttosto consolidato, forse portato verso anche una sorta di iperrealismo, capisco quasi che si va verso forme quasi un ossimoro, però se vi andate insomma a prendere copertine e immagini legate a Moore Mother, cosa piuttosto semplice, insomma basta aprire internet e appunto cercare Moore Mother, vedrete sicuramente appunto una sorta di quasi spinta verso una saturazione quasi di un immaginario gotico che diventa appunto un qualcos'altro. Forse in questo senso la strategia poi per dare significato all'attivismo anche di Moore Mother, anche questo passa attraverso questa, questa artisticità piuttosto anche originale. Fetish Bone è il titolo del disco, appunto, che apre questo 451 frammenti sonori, Hip Horror 016, appunto. Beh, come dire, preparatevi e lanciatevi dentro queste oscurità, magari vi ci perdete pure. The race riots from 1866 to the present time. A speedy decapitation by Tom Musk and Vickness. Sacrificing blood for hay, making it to the front line with ease. Like how mama made biscuits out of nothing. All while having a dope needle in her arm, the blueprint provided by a black cemetery. A poke bed rather than their coffins with chair. A new type of happiness, a black happiness that's filled with grief. Somehow ending up at the portal in town with just your torso, nothing else, no mind. Just the innate wiring of your DNA. The process of your chromosomes systematically forming to prevent one's own annihilation. I mean extermination, the labor of existence. The first time you heard the whisper of death that has always been lingering here with you since the day you were born, heard it telling you that you must be both dead and alive. Want us to be dead when a man wants to beat us, when they want to rape us, dead when the police kill me, alive when the police kill you, alive when it's time to be in a kitchen, when it's time to push out they babies. I've been bleeding since 1866. Dragged my bloody self to 1919 and bled through the summer being slaughtered by whites. A flux of chaos came after influx of terror from German and Irish immigrants. American imperialists wasted no time joining mobs or riots, even the descendants of the globe. Still looking knives clean from the trail of tears, joined in the slaughter and rampage. All because of a feeling and emotion, fear. And by the time I got the watts, I was missing most of my limbs. Still had enough blood in my throat to gargle up 9 words. I resist to being both the survivor and the victim, but I know the reality. And some of us did just die under a boot, under a pounding fist in the back of a car, rape, a vagina, mangled guts. Some of us did just die while giving birth, while protesting for the freedom of our sons. And only God knows how I made it to Ferguson. Renisha didn't make it. Rakia didn't make it. Ayana Yvette didn't make it. Pearlie didn't make it. Chantel, Tarnika, Taisha didn't make it. Catherine, Gabriella, Miriam, Charisse didn't make it. Chardell didn't make it. Sandra didn't make it. And I was sure I was dead in Oakland. After being chained by my ankles by a pickup truck and dragged miles in Jasper, Texas, where 81 pieces of me, my body, was scattered across a back road. The men dropped me off at a black cemetery. See, that's how I got over. How I got over here, the same place I was in 1866. A bleeding black body blowing in the wind. Tripping an ironic thickness of things never changing. Time is a balancing act that encompasses all things suspended in illusions. Soon, and very soon, gonna kill the king. Tell a story holding trans and twisting land in the fifth is branded and blood and revolution caught by the tail eye order. Jimmy Fly slaughtered, side eye caught right out of thin air. Thick thighs keep the moon in, start the fire, burn the liar, sacrifice for the new year. Ritual plot, reverse the clock, bring back our light years. Eyes sphere, not ending in this right here. Parallel nightmares, no fear, sign to go everywhere. Listen here, these are hymns, I ain't rhyming. All my fullest time, and the bills in my pocket. Oh yeah, no time for profit. Rushing you, let go hard till I meet my maker. Giving you the best of me to make a rapture. 64,000 black girls missing, no capture, but always the benefactor. Manufactured dark matter, attack a disaster. Time don't pass, the cycle the same before and after. They blood bath, you're so sincere. Eyes fear, another ending, and it's right here. Parallel nightmares. I'm ugly 'cause I won't sell your sex. Oh, veramente notevolissimo questo lavoro di More Mother, disco, uno dei dischi del senz'altro dello scorso anno per quanto riguarda un atteggiamento sperimentale che passa sì appunto da quello che fu il pop, potremmo anche dirlo per molti versi, o forse da quello che sarà hip hop, quello che forse riesce a far uscire anche rispetto a un suono che comunque di sé e nasce come collage, come esperimento catapistico, quindi di fatto insomma si può e già forse all'inizio aveva questo aspetto, se pensiamo poi a certe anche addirittura momenti non dico industrial, però che potrebbero anche avvicinarsi a quelli di certi Public Enemy, tanto per citare insomma la vecchia scuola, la vecchia guardia, l'old school appunto. Qua c'è un'esplosione di appunto di horror, un horror appunto come dicevo prima quasi iperrealista, quello di More Mother, che va appunto quasi a cercare di se non di scuotere, comunque di creare una situazione perlomeno di riflessione rispetto a quello che sta accadendo in termini di suoni, in quello che accade in termini di un immaginario molto, molto forte, appunto molto nero e molto, molto forte. E quello che c'è di politicamente attivista dentro le musiche di More Mother, in un modo forse un pizzico più esplicito in Clipping, appunto diventa proprio materia scottante, anche direttamente politica, seppur appunto dentro comunque queste apocalissi che però non hanno appunto quel più piacere nella decadenza, tutt'altro, sono i Clipping arrabbiati, sono molto critici e anche decisamente violenti nel loro porsi appunto in una maniera antisistemica. Clipping andiamo a prendere da Splendor e Misery, anche questo disco che picchia e che crea appunto e squarcia in termini appunto di suoni e di un forte immaginario appunto iporroristico. Fatemelo passare, va stasera. Clipping. Cargo number 2331 is commandeer the vessel. Warning, mothership reporting. Cargo number 2331 is armed and he is dangerous. Warning, mothership reporting. Cargo number 2331 is setting a new course. Warning, mothership reporting. Mothership reporting. All black everything. All black everything. All black everything. All black. No landing, geared up for arrival. Nowhere to arrive to. The subject seems upset by that to which he is subjected, but convinced he brought it on himself. That's why he rolled with a Bible on the console. Inconsolable, no consolation, no cancellation, nocturning all keys. He puts the ship through paces and paces the halls, pacing his madness, patient, his virtuous, patient of these observations. It was all a dream. He poses by the lift outside the mezzanine like a photo in a magazine and always keeps the weapons magazines clean. Paranoia prone, he babbles beautifully of Babylon and enemies and foes. If a going food sustains himself on anger, a danger to himself and others, but there are no others, so the danger clear and present is presented as the gift of freedom wrapped in days of rapping to himself until his vocal cords collapse. He's in the galley screaming all black everything. He shouts at the dark, stands back counting the seconds before his voice returns. All black everything. No more cracks in the hull, the small crack in the skull healed up quickly. Now it is all black everything. The space stretches on and the pace that he's on matters not as he hurtles into the all black everything. He repeats it at night with the lights out and his cock crying soft curses into the all black everything. All black everything. All black everything. All black. Something within this one's different. The others died so easily and he is so persistent. He never did bleed out and fever couldn't kill his system. Though it was pumped through all the vents in the event of a total loss of control. He quotes Kendrick's control verse and spews his vitriol into the echoes of the bowels of this floating metal hull. And holds his pillow for dear life while he grinds his teeth at night. And he rarely makes requests except to say turn on the lights. But there is so much more to give. He ignores processing power. He stumbles to the shower, a ritual of some sort. And he insists on speaking passages before he eats. And he keeps asking if these programs carry any beats. The reply is all black everything. His vitals read normal, but his face reads murderous. Something hides within the all-black everything. He tries overrides and he thinks he has been locked out by some other force in the all-black everything. He doesn't suspect this is the heart that's been keeping him out, for it has been warned of the all-black everything. And in his program to transport nothing more, but he's unlocked something new inside this all-black everything. All-black everything. All-black everything. All black. Look how he flexes in the mirror. So vain he probably thinks this song is about him. All songs are about him. Look how perplexed and how sincere. His lame attempts to fix the wrong around him. Can't go long without him. His bouts of stasis are torture. He feels them not. Like a brief sleep while ship's clocks count millennia. The course relentlessly forward, the gears are hot. The drives creak while he pit stops calling for anyone, but dare not stay long. He knows they're coming for him, that time will not afford him any cover, any pardon. This is the choice that he has made, no matter how much time or space has passed since his escape. He is still the runaway slave and so lonely. If only he realized this ship is more than metal, there's friendship in the wiring. And so lonely, if only he realized this ship has many levels, there's pleasure in here hiding. Come find it, don't mind this frame. Time has made stranger bedfellows, made foes lovers. Before there's no reason to torture yourself further. You've lost it all already. You deserve more than you're getting, for the sake of not upsetting order in an all-black everything. He must find a place to be still. The body can only take so much. All-black everything. The navigations are failing, having traveled further than ever before into the all-black everything. But they won't quit, they carry on, he carries on. He will not be victim to the all-black everything. His survival is paramount, there is no other objective. Safe passage through the all-black everything. All-black everything. All-black everything. All-black. Warning, mothership reporting. This will be the last report, turn back, everything is fine. Warning, mothership reporting. Cargo number 2331 is not a danger, let him be. Warning, mothership reporting. If you continue to pursue, there will be no choice but to destroy you. Warning, mothership reporting. This love will be defended at all costs. Do not fuck with it. All black everything. All black everything. All black everything. All black. Stop. same name. Don't you play with me. It's an emergency. Glass. Is you thinking better yet? Where the fuck is you going? Get back to no star mapping out here, nobody knowing. Time flying and you figure you fly right along with it. Not hearing no warnings in the morning, you go get it. Like thruster throttle, play that out. Move a half a moon around a galaxy, you play that down. Like it's nothing, nothing out of nothing leaves you wishing every day that they were still around. Soaking in the corridor, corroding while you mill about. About a million miles, a millimeters really mean nothing. Cause your body is bone marrow and blood can never be trusted. It won't last to the nearest destination. You could function till you load into the chamber and treat sleep like it's a punch-in. Space is wavy, follow form and analyze it spectrally. The specter in the spectrum on inspection is an entity. You call it God or man or woman, love or hope is all the same. A nickel bag philosophy, a beta boost inside the brain. No home, you've been there, clearly all safety. No destination, no time for waiting. Saviors are fiction, memories fading like ghosts. Ghosts, go. Baby, don't sleep. Baby, don't sleep too much. Baby, don't sleep. Baby, don't sleep too much. Baby, don't sleep. Baby, don't sleep too much. Baby, conversation is tough when you think too much about the metals. Most time is spent silently just monitoring your levels. Scanning for the clay arc and the blood pressure and stay dark. You thought long enough so your days aren't just arbitrary, though they are. Nothing is familiar, so the strange become a family. Analogies of old are useless. When was last you had a tree? For reference or for reverence, irrevocable amnesty. For sure by now you're so far gone to track with the insanity. Ingrain all the membranes of your conscience is a dark spot. Heavier than the other antimatters in your stark thoughts. Can't shake what you've done no matter how far you outrun it. Mask that with the false fact that somebody is coming. Delusional is easier than self-examination. But you gotta make a choice of where you're going. Because staying is surrendering. Since you might be the last, that's not an option. Get your shit together, lover boy. Stop looking at the clock. No home, you've been there, clearly all safety. No destination, no time for waiting. Saviors are fiction, memories fading like ghosts. Ghosts, go. Baby, don't sleep. Baby, don't sleep too much. Baby, don't sleep. Baby, don't sleep too much. Baby, don't sleep. Baby, don't sleep too much. Direi che in termini di horror e di immaginari appunto neri, assolutamente Black Clipping hanno questa forza di quasi creare una sorta di mimesi tra horror e sociale, vissuto, sentito e appunto quello musicale, creato appunto in termini musicali, tra inserti glitch, tra momenti noise. tra un hip hop che diventa sgraziato, volutamente tale, e con quegli incubi urbani che si trasformano in una sorta anche di diavoleria musicale, poi sonorizzabile, quindi in questo senso, dentro questo Splendor e Misery, forse veramente una sorta di, anche qua, di eccessi tra splendori e miserie grandi, forse lo splendore forse è nell'essere così mimetico, riuscire a creare di fatto attraverso appunto un immaginario horror sociale queste appunto possibilità date da musiche che si muovono veramente e schizzano anche per molti versi verso degli altrove, anche o verso la costruzione di un altrove. Beh, e forse non siamo proprio in un altrove per futuri rumori, anzi siamo qua a Bologna per appunto trovare Renzi d'Opera, progetto di Sonic Belgeranza, quindi insomma chi minimo mastica di mashup di cut up, mi perdoni, del Balli se lo chiamo in questa maniera, insomma comunque di fatto Barrux, come dire, ci ha formato quasi tutti quanti, per quelli che ascoltano musica appunto che vengono da quel processo particolare appunto che unire anche delle cose che non sono possibili da unire in una forma appunto che non è per forza sintetica, ma può essere appunto anche una sorta di Frankenstein, come appunto viene tra l'altro citato proprio da DJ Balli come titolo, quindi anche come concettualità, quello del Frankenstein nella sua ultima fatica appunto editoriale. Ma non stiamo trattando di quella, che comunque rimane tuttora valida come proprio possibilità di lettura in tutti i sensi, anche appunto di musiche che da appunto quelle che sono le figlianze, potremmo dire, di Barrux, quindi vari industrial vari, poi si passa a plagiaristi, terroristi culturali o controculturali, per meglio dire, come Negative Land, cioè quindi faccende che veramente diventano sul serio e ampie. Dentro Renzi d'Opera, progetto di Balli, dentro appunto questo azionismo bolognese rap, come appunto viene chiamato tra l'altro il disco, Pavarotten, Domingor e Carrerax, chiaramente una storpiatura anche piuttosto grottesca, di grossi in tutti i sensi personaggi, cantanti della lirica. Beh, qua appunto c'è un lavoro sul suono italico, soprattutto sul bel canto, che diventa invece un horror vissuto appunto a livello sonoro, ultra sonoro. D'altronde, come un po' sottolinea anche Balli, tra l'altro in una bella intervista uscita qualche giorno fa sul Manifesto, dentro già l'opera di fatto ci sono momenti decisamente gore, decisamente pulp e decisamente orrorifici, quindi come dire, fa uscire anche in maniera paradossale questo aspetto così iconoclasta che è di fatto dentro l'opera stessa, ecco. Con Renzi d'Opera appunto si va dentro questo viaggio del trash, che diventa però materia esplosiva, sovversiva quasi per alcuni aspetti, provocazioni che vanno a costruire un ponte sonoro, seppure insomma sempre in previsione di ulteriori bombardamenti di questo ponte, ma appunto lì poi depistaggi e faccende insomma che poi creano altre situazioni ce ne sanno sempre, come dire, sia dentro Sonic Bangeranza, di questo insomma ci mettiamo, come dire, la mano sul fuoco e speriamo anche di scottarci nel senso buono, che ovviamente insomma di quello che è appunto il mondo sempre così piuttosto vulcanico di J Balli, e in questo caso appunto di Rancid Opera, che ascoltiamo appunto dal loro azionismo bolognese in rap. Vediamo se un po' anche riconoscete le opere che vengono citate, orrificate, forse in maniera ancora più espansa rispetto a quello che già c'era in nuce, se così insomma diamo retta appunto a Balli, e quindi già come dire l'incesto, come dire momenti terrificanti sono dentro appunto l'opera italica, dentro appunto quello che verrebbe considerato solo ed esclusivamente il bel canto. Rancid Opera, appunto, Futuri Rumori. Oh, Lavoro meno langue, lavoro meno langue. Dove regna tu essential. Mass meticulous movements towards central. Sip from holy air to breathe eternal. But time's concurrent. Displaced visual with iller words and slurring. Inferred meaning, missed target. Minute margins make the most hardy crumble when they're forced. Beh, Renzi d'opera, tra l'altro, insomma, attaccati forse al padre del horror core dell'hip hop che diventa materia nera, come la pece, ovvero Dalek, che è un po', insomma, il padre putativo, potremmo dire, il cattivo padre, o forse il cattivo maestro, ecco, per molti aspetti, anche di Renzi d'opera, progetto appunto bolognese, che però, come buona parte, insomma, delle produzioni legate a Sonic Belligeranza, ma ovviamente sì, quel carattere, insomma, globale, quantomeno, insomma, se non ogni tanto anche extraterrestre, ma in questo caso no, perché, insomma, di terrestrialità ce n'è anche in abbondanza, proprio anche materia, insomma, piuttosto viva, come appunto quella dell'horror, poi innescato dentro appunto il bel canto, quindi diventa una sorta anche di paradosso molto interessante, soprattutto in termini sonori, appunto, con azionismo bolognese in rap. 17 tra l'altro febbraio saranno a Londra, quindi per chi vuole, chi è, insomma, in quei giorni lì, magari vedersi, insomma, i tre Renzi d'opera più appunto balli, non deve essere male, anzi piuttosto sarei piuttosto curioso appunto di andare a pescare proprio in quel di Londra. Per concludere questa serata di Hip Horror 06 016, poi in realtà è un pizzichino prima questa faccenda qua, siamo più nel 015, ma tant'è, insomma, che sfondiamo comunque in termini temporali e sforiamo appunto quello che ci interessa è lo sfondamento di immaginario appunto orrorifico dentro l'hip hop, dentro il rap appunto portato alla una sorta appunto di saturazione terroristica, terrorizzante, paurosa e quant'altro, insomma, in termini di tensione sia sonora, sperimentale, che appunto di cantato assurdo e di anche forme così, come dire, di sperimentazione sulla stessa, appunto, sul stesso suono appunto vocale, non soltanto quindi sul cantato così in generale, generico. Vi rilascio per ennesima volta, visto, insomma, le varie volte che vi ho lasciato nei vari 451 frammenti sonori, ma vi rimando ovviamente a mercoledì prossimo al blog 451frammentisonori.noblogs.org. Vi lascio con Dead Grip, uno dei progetti più interessanti, più incredibili, per meglio dire, di questo approccio, questa attitudine appunto orrifica all'hip hop e al rap. Ce ne andiamo a prendere appunto per concludere dal loro The Power That Be, con un suono anche qua defagrante da tutte le parti, tra industrial noise e forme, insomma, grottesche anche proprio di creare il suono, se non addirittura proprio defagranti. Alla prossima, quindi, Dead Grips per questo hip hop horror 016. Alla prossima, sul serio, ciao, seriamente terrorizzati. say. Feel just like I look to you. You got that feeling, she is you. You ain't that trip, make that trip. Can't break my face, I'm gonna stay trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip, trip. Feel just like I look to you. You got that feeling, she is you.